proprietario mi ha detto già non fuggio, vedi non riesce a cattarla. E si è fuggita, non uscire, mamma mia. Riada, voi, riada, grazie, anche perché se ti dà qualche scodata quando è nell'acqua ti bagna con l'acqua calda, oiui. Adesso siamo in figliola, ma se ti è nata a parlare, adesso sta a figliarla. Sarà peccata, sì. Grazie, agli voi, da voi, mi siete quasi chi fa regalare noi. Quanti capi due. Batteria giusta o perlomeno carica più che giusta. E io comunque tu devi prendere il microfono. Giulio è un falegname, tu lo sai, no? È un falegname, è un maestro falegname, ha costruito un Turner praticamente tutto in legno, il tasto in legno, tutto in legno completamente, e poi l'ha colorato color legno. Devi vedere che campo lavoro che ha fatto. Sia il circuito che il microfono, tu lo vedi, sembra un Turner più 3, però tutto fatto in legno. Io non le so fare queste cose, la verità non è il mio campo, ma ci sono tante altre cose che so fare. Cavalgava. Giulio. Dammi. Sì, cosa ti è successo? No, niente, stavo solo cambiando, adesso lo sto usando sempre questo microfono in legno, lo sto usando con il toccare 50-24, non so come esce qua. Qua esce molto meglio, Giulio. Ho capito, perché nel frattempo ho cambiato anche la batteria, è amplificato adesso, se ne sente? Adesso sì, sembra davvero l'MVQ4. Ok, sì, ho trovato un'altra batteria che ha qualche cosina in più di carica, perché non riprende questa, sai perché? Così, perché le riprendo, no? Compro queste batterie, poi me le cambio, anche se so che quella che... Se c'è montata funziona sempre, poi fate una stima, la mettiamo sempre nuova, intanto per quello che costano, non me ne frega niente. Però non le butto, ce le ho sempre qui nel cassetto, adesso lo cercando e cercando, ne ho, pensa che ne ho 7 di queste batterie. Finalmente ne ho trovato uno con un po' di più di carica, l'ha visto già. No, io già le consumo sino alla fine sempre. Non le lascio tempo. Cosa ti stavo dicendo giù, ma... ti volevo dire una cosa se non mi ricordo. Che capsula le ha messo a quel microfono? Capsula da 600 euro le ho messo. Magari se ne mettevi qualche capsula di telefono. Era una bomba viva. No, se mettevo la capsula di telefono diventa più metallico, capito? Già, va bene lo stesso, perché quando il telefono entra ai 2000 ohm, capito? E dunque diventa più metallica come modulazione. Ho già sperimentato anche quello, già. Cava, ma oggi va bene questa qua, è tranquilla. Fa molto bene, sembra un micro. Ma tu ne hai uno in costruzione? Ce l'ho sempre in bottega, ho già, ho i pezzi, però non l'ho mai portato a termine. Lo stavo facendo, lo salvo per un amico e poi invece non se ne è fatto più niente. E tu farlo, lo fai per un altro amico. Però è un amico che poi il circuito se l'avrebbe dovuto fare da solo, capito? Non è che dovevo fare io. Anzi, a dire la verità, il circuito a un amico gli ho passato lo schema, gli ho passato, poi non ho più sentito, non so nemmeno che cosa ha combinato, se l'ha fatto questo circuito o meno, capito? Cappagatto. Vabbè, quello lì rimarrà così allora. Non è che ho molto tempo, ma può essere che un giorno lo posa a tu, neanche quello, è che lo sa, non lo so, però sinceramente adesso a mettermi a saldare e fare, non, anche perché tu lo sai, io mi faccio la piastra, mi faccio tutto, il liquido adatto, la piastrina del rame, eccetera, proprio per fare la pista, no? Ho tutto. Però quando mi metto a saldare, siccome sono saldature molto piccole, non è che mi distingo molto, nemmeno con gli occhiali, e quando mi metto gli occhiali adatti, poi subito mi salta la vista e allora devo rilasciarci, capito? Cava. Vabbè. Vediamo allora cosa si può fare. Quello lì però è un peccato lasciarlo fermo. È un peccato. Anche perché è una cosa artigianale, è bella. Alla mostra dei 5.000 portiamo. No, devo essere sincero, adesso se ne sa preso, tanta gente me l'ha chiesto, però non l'ho mai dato, anche per il rispetto da che per chi me l'ha chiesto prima, capito? Perché non è giusto, magari arriva un amico me lo chiede e io non lo do perché prima c'è stata qualche altra persona che me l'ha chiesta, anzi addirittura gente che mi ha detto fammelo, ti pago, ti fammi il legno, dice, poi mi dai il circuito, te lo pago, ma guarda, non ho tempo, sinceramente non ho tempo. E allora un giorno stavo facendo quello, poi invece l'ho sospeso perché il tempo mi è mancato, perché mi interessa più il lavoro per guadagnare che per fare cose così da lungo, capito? Io già. Vabbè. E cosa vuoi fare? Tanto uno te l'ha costruito per te, e chi sei sicuro che virai? Sì, un giorno, guarda, se ci vediamo, un tanto tu vieni sempre da quelle parti, no? Ce l'ho anche registrato, cioè fotografato nel telefonino, te lo farò vedere anche fotografato. Ma già me l'hai fatto vedere l'altro, quello vuoto, là, che stavi costruendo, che era un bel bello. Avanti, poi l'hai verniciato quello lì, sì. L'ho verniciato, ti dirò di più, guarda come è successo. L'ho verniciato, no, quello che ho fatto, quello finito, e poi avevo fatto il tastino esattamente come quello del panel più 3, no, uguale, così, largo, eccetera, eccetera. Beh, il tasto è quello che è ancora chiaro, non l'ho mai verniciato, perché invece ho verniciato tutto il microfono. Però domani lo smonto e ve lo porto in bottega, magari quando sto verniciando, e lo metto in mezzo, mi faccio anche quello, capito? Per essere tutto un colore. Perché mi ritrovo con il microfono, con il ciliegio e con il tastino, chi è più chiaro che praticamente o qui muovono l'hai. Io per me non sta. Capi due. Mi ascolti, capo. Cavolo, vai. ti ringrazio, signor Buschi. Vittorio, ho dovuto impararmene, ho dovuto andare su internet a cercarlo e no, con non poche difficoltà. Thank you. dipende, saranno i condensatori scarichi, sicuramente se vedi acido all'esterno va più, perché se i condensatori hanno perso acido fanno danno. Sono entrato su internet e c'era un sito dove c'erano tutti i pezzi di moto antiche, Piaggio, sì, Bravo, Vespa, di tutto. Poi c'erano anche apparati di un certo livello, però antichi. Thank you. prossimi ci sentiamo, eh? Ok, d'accordo, salutoni anche in famiglia. Avanti Gianni, per Gianni di Mulos. Voilà, ciao Gianni, ben sentito, cordialità e buona serata. Allora ci sentiamo stasera, è sempre un piacere ascoltarti. Anche approfitto per chiudere perché devo andare a preparare il pranzo. Non farò nulla di speciale oggi, ma qualche cosa di buono già la faccio. Dai, gnocchi di patate. Ciao ciao. Ciao Gianni, buon venti, dai. Ciao alla Capri 2, buona carica, buon riprendi. Riprendo io allora per salutare Gianni di Perù. D'accordo, anch'io adesso scendo giù in cucina, perché tanto è già luna e dunque siamo vicinissimo, ma molto vicino al pranzo. Va bene, ci sentiamo un altro momento allora, dai, salutoni a tutti. Ciao Gianni Capidù, Gianni Duperù e Falchetto. Alle prossime, Falchetto, ci sentiamo, ciao, riprendi. Ok Giulio, vai, buona carica, buon pranzo, buon tutto, dai, ce la riassorbiamo più presto, dai. Salutoni al tuo RA rispettivo, dai, e tutte le prossime, ciao ciao. Ok, ah, un attimo, Falchetto, ti volevo chiedere, tu come ti senti con questo microfono autocostruito in legno? È adattato adesso sul 50-24 della Tokai, come ti senti con questo microfono? È abbastanza pulito, guarda, è perfetta la radio, al 100% credo, vai. Ok, ti ringrazio Falchetto, alle prossime, ciao, grazie, ciao, ciao.